Soffri di mal di testa, nevralgie, cefalee, difficoltà nei rapporti umani? Non ti si mette in moto la macchina? Perdi i capelli? Hai il lavandino che perde? Nuoti male in piscina? Allora risolvi tutti i tuoi problemi con l'elisir del dottor Meazza. L'elisir che ti cambia la vita a soli euro 19,90. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Io sono quello da guardare quando ho voglia di giocare. Sono schiavo dell'artista che c'è in me. Datemi il pallone, non parlate, poi correte ad abbracciarmi. Ma scusami, il tuo elisir per caso cancella anche le rughe? Perché te ne vorrei subito prenotare un paio di flaconi. Guarda, devi parlare con la mia agenzia di pubblicità, che è gestita appunto dall'amico, si fa per dire, Leonardo sì. Manera, che poi ordino sempre... su Amazon. Sì, beh, certamente. Che fa, dicevo, l'amico Leonardo Manera, che trova sempre il modo di infamarmi alle 10.30 per lanciare il tuo collegamento con le borse e i mercati finanziari. Perché abbiamo scomodato, buongiorno a tutti, il buongiorno. Fantasista di Enrico Ruggeri, il nostro amico che salutiamo e a cui auguriamo naturalmente sempre il meglio per le sue nuove avventure televisive. Allora, l'abbiamo scomodato perché dobbiamo parlare di uno dei massimi fantasisti, di quelli proprio cantati da Ruggeri, cioè Antonio Cassano. Sì, effettivamente, certo. Quando ho voglia di giocare, come dice il verso della sua canzone, sì, Cassano, per chi lo ha visto giocare, era uno che quando aveva voglia era anche molto piacevole da veder giocare. E ha avuto fantasia nel scegliersi il commercialista, devo dire. Diciamo che non per colpa sua probabilmente, ma gli è venuto male un dribbling all'Agenzia delle Entrate che gli contesta 263.000 euro perché la questione è arrivata addirittura fino in Cassazione. Lui aveva dei fringe benefits che venivano forniti poi al suo procuratore per le prestazioni che il procuratore stesso rendeva a vantaggio di Cassano. Però secondo i giudici tributari pugliesi non andava tassata questa somma, la vicenda era andata avanti, si è arrivati fino in Cassazione. Cassazione ha detto no, qui questi 263.000 euro sono un compenso che Cassano doveva dichiarare e versare, quindi lo ha per così dire stoppato e rinviato al versamento in cassa. Ma a proposito Cassano. Di calcio, devo dire che la massima fantasia la dispiegano anche gli allenatori delle grandi squadre italiane quando fanno la consueta conferenza stampa. Adesso impermaliscono sempre con i giornalisti, non possiamo mai parlare. No, allora. Però io adesso veramente con il cuore in conflitto, perché io difenderei qui in questo caso l'allenatore della squadra di Torino. Benissimo, allora Sarri che cosa ricorda ha fatto cosa ieri? Cosa è successo? Allora, nella sostanza ieri, adesso io non so neanche che domanda gli abbiano fatto i giornalisti e che hanno provocato questa sua risposta. So che ad un certo punto ieri ha detto: vabbè, se volevo essere messo sotto esame lavoravo alle poste. Se non volevo essere mai messo sotto esame lavoravo alle poste. Hai ragione, lavoravo alle poste. E allora che cosa è successo? Che si sono impermalite le poste e hanno subito impugnato carta e penna e hanno detto insomma guardate che qua si lavora con grande... Aspetta, che cosa è successo Marce? Ci devi mandare qualcosa? No, possiamo sentire la viva voce dell'allenatore della squadra di Torino. Se non volevo essere sotto esame facevo domande alle poste. Questo è un lavoro che è fatto sì, soprattutto alla Juventus, quindi... No, tra l'altro stiamo continuando a parlare di due società quotate, quindi modererei ovviamente tutti i commenti, comunque, quindi mi ritiro. Comunque le poste si sono impermalite, sì, perché hanno detto, ma insomma, guardi che Poste è la più grande azienda del paese, viene scelta dai giovani laureati come una delle aziende più attrattive presso le quali lavorare, è riconosciuta tra le prime 500 aziende al mondo per la qualità della vita lavorativa. Insomma, come diceva il comico Bruschetta in una trasmissione televisiva, sono cambiate le cose alle poste e le poste hanno realizzato, dicono, tra le migliori performance di borsa nel 2019. Bene, devo dire che in borsa effettivamente il titolo va molto bene, un po' meno bene vanno le cose quando arrivano coloro, i postini che devono consegnare le raccomandate, che lo fanno nella consueta modalità. Noi avevamo chiamato le poste anche per commentare quella vicenda anche un po' folcloristica che ha fatto divertire ma anche un po' indispettire gli ascoltatori. Non ci sono voluti venire a spiegare un bel nulla, per cui non vorrei dare ragione a Sarri. Non hanno ricevuto l'avviso. No. Consiglierei alla allenatore di quella squadra lì, che io, come dire, che stasera a San Siro si scontra con gli amici milanisti. Sì, faccio gli auguri a entrambi. Vabbè. Proprio. Ma no, volevo dire, non faccia l'esempio neanche col catasto, perché secondo me pure l'agenzia del catasto si offende e quindi non so, trovi un altro paragone. Posso dire che io uso più quella battuta lì che quella delle Poste, non lavoro mica al catasto e adesso qua che si scatena l'inferno. Senti, è giovedì, però, visto che abbiamo parlato di due società quotate, parleremo di mercati finanziari per gran parte della trasmissione, perché è giovedì e c'è Investire Informati. E qua è un momento che va proprio ben commentato e analizzato, perché abbiamo queste borse che volano. Oggi hanno messo il freno, però diciamo che dopo i record toccati ieri, ogni tanto qualche passare all'incasso ci sta. Ma il punto è che l'economia va da una certa, in una certa direzione, poco fa l'ho detto anche la Commissione Europea, le borse vanno da tutt'altra e quindi c'è questa divaricazione. L'economia frena e le borse accelerano. Esatto, quindi che succede? È sempre colpa o merito delle banche centrali che hanno inondato il mercato di liquidità, i mercati non sanno dove metterla e la mettono nell'equity, nel mercato azionario, ci sono altre ragioni. Quindi abbiamo delle belle domande interessanti da rivolgere al nostro ospite. E poi naturalmente c'è tutta la incertezza legata al coronavirus. Esatto. Ma sai come si chiama questa cosa che appunto l'ho imparato pochi minuti prima di andare in onda? Di divaricazione tra quello che funziona per le, o non funziona l'economia reale e quanto funziona per i mercati. Si chiama decoupling. Assolutamente. Adesso non so se abbiamo anche una versione di un film dicitore in inglese, però proprio così, decoupling, per molto dire bene. Che le borse vanno da una parte e l'economia reale va da un'altra e si ignorano così, manco buongiorno e buonasera. Poi a volte succede anche il contrario, adesso non mi ricordo a memoria in che fase si è manifestata anche la circostanza in cui era l'economia a correre ma la borsa non rispondeva e non rispecchiava l'andamento dell'economia reale. Detto questo, ne parleremo di tutto ciò, magari approfittiamo anche per salutarlo con Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management, che ha avuto anche l'onore di vedersi consegnato poco fa il Focus che è stato pubblicato dal Sole 24 Ore la settimana scorsa, come proteggere i propri risparmi, e quindi se volete anche voi una copia ascoltate con attenzione il nostro programma, perché a un certo punto giungerà il domandone e avremo così il piacere di inviarvelo e di regalarvelo. 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per messaggi, sms e whatsapp. Tutto ciò premesso, andiamo con il giornale radio del risparmio. Ta-na-na-na, na-na-na-na, amore, i soldi, ta-na-na-na-na-na. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era. Allora, qua ci si entrava molto bene perché era una signora villa. Sì, io penso, cara Deborah, che a un certo punto dovremmo introdurre nel codice penale o in qualche norma tributaria il reato di sfacciataggine. Sì, perché detto anche faccia come il di dietro. Sì, perché allora qui è successo questo: ad Arenzano la Guardia di Finanza ha posto sotto sequestro una maxi villa con piscina che si trova in Pineta, formalmente di proprietà di costruttore e immobiliarista indagato per frode fiscale e sottrazione fraudolenta. Cosa aveva mai fatto questo qua? Secondo gli inquirenti, la casa veniva affittata in nero anche per 1000 euro a notte. L'imprenditore avrebbe anche pendenze con l'erario per circa 100 milioni di euro. Quindi insomma, diciamo che una persona già nota agli organi di accertamento del fisco si permetteva anche di affittare in nero, così almeno nell'accusa che viene mossa, di affittare in nero una maxi villa su Airbnb. Sì, esatto. Quindi lui, nel tentativo di continuare a passare inosservato, cosa ha fatto? L'ha messa su Airbnb pensando, certo, che la finanza non lo trovasse, non se ne accorgesse. E questo, per questo io dico, forse ci dovrebbe essere anche il reato o quantomeno l'aggravante della sfacciataggine. Esatto. Perché magari così è davvero esagerato, è davvero. Senti, troppo. Nel caso in cui tu venissi licenziato dal tuo nuovo lavoro, quello di Intimacy Coordinator, sì, quel secondo lavoro che fai da qualche tempo, come ci hai spiegato qualche settimana fa. In realtà sono preparatissimo, ma non ho ancora avuto nessuna offerta, ma anzi ne approfitto per candidarmi. Ricordiamo che cos'è questo lavoro qua. Sì, è come il maestro d'armi nei film, nel cinema, no? Che deve spiegare agli attori come devono combattere a seconda del periodo storico che devono interpretare, e invece l'Intimacy Coordinator è quello che deve spiegare agli attori come devono recitare le scene d'amore e anche le scene spinte, le scene di sesso. Benissimo. Ecco, io come esperto mondiale, esatto, mi candido. Nel caso questa tua carriera non andasse a buon fine, non decollasse, classe, te ne suggerisco un'altra. Ti suggerisco di rispondere all'annuncio che su LinkedIn ha fatto proprio pochissimi giorni fa, il 6 febbraio, la nostra cara amica Amazon. Oh, ecco, certo. Allora, perché ti suggerisco questo lavoro di candidarti? Perché dopo la tua lunga militanza, norme e tributi, sei sicuramente preparato a svolgere il lavoro di Military Area Manager. Ciumbia, perché militare? Allora, l'azienda in Italia adesso recluterebbe ex militari per gestire magazzini ed uffici. Li chiamano i guerrieri e devono governare i ritmi forsennati di lavoro. Ogni addetto, infatti, ha l'obiettivo di gestire, di disporre la spedizione di 700 pacchi l'ora. C'è un ufficiale che li controlla e quindi, siccome la disciplina è ferrea e militare, addirittura pare che Amazon abbia intenzione di reclutare figure che sono molto votate, insomma, alla disciplina. Quindi anche il caso, però, non ce la stiamo inventando sta notizia, oggi è apparsa su Repubblica. No, è proprio così. Anche il caso del milite assolto, come si diceva una volta, sì, quando c'era la leva per noi maschietti, potrebbe tornare utile, chissà, magari per trovare lavoro, magari se uno ha fatto il graduato di truppa, già il caporal maggiore, potrebbe essere utile per trovare un posto da Amazon. Vabbè, senti, poi ci sarebbero altre notizie, però qua il tempo corre. Io farei così: sentirei Dillo a Due di Denari, poi comincerei la nostra conversazione con il nostro ospite di stamattina. Ma volentieri. Dillo a Due di Denari. Scusate, in merito al pagamento tracciabile, quindi con POS, per le prestazioni sanitarie, mi andrebbe di fare una piccola considerazione in merito a tutte le transazioni elettroniche. Io, se pago con 100 euro, moneta contante, quelle 100 euro, qualunque mano, da qualunque mano passi, sempre 100 euro rimangono. Le mie 100 euro pagate con il POS, nel momento in cui arrivano in tasca al medico, diventano 99 euro. Poi quell'altra transazione che farà il medico, probabilmente elettronica, le farà diventare 98. C'è una perdita costante di valore per ogni singolo pagamento effettuato. Riflettiamo. Vabbè, noi adesso ci chiudiamo in religiosa riflessione rispetto a questa provocazione lanciata dal nostro ascoltatore, e però è tempo di partire con la rubrica del giovedì. Investire informati. Eccoci qua, pronti a partire con il tema del giovedì. Il tema è a cavallo tra il medico e il finanziario. Ce l'abbiamo. Niente, perdevo un po' di tempo perché volevo far partire un contributo che adesso è pronto a partire. Investire informati. Il coronavirus avanza, l'economia si ritrae, le conseguenze economiche e logistiche per le aziende piccole e grandi seguono la curva dell'emergenza sanitaria. Sono due i settori che più di altri rischiano il contagio, quello automobilistico e l'high-tech. Foxconn. In un'Italia che non riesce a crescere, che ha archiviato in negativo il PIL del quarto trimestre, ora a preoccupare le imprese è il possibile rallentamento del gigante cinese, verso il quale ci lega un interscambio. Abbiamo il precedente della SARS, dove ci fu un impatto sulla Cina e più limitato sul resto del mondo di qualche decimale, che poi fu riassorbito dopo il primo trimestre, ma naturalmente dipenderà da come si svilupperà questo virus. Sì, abbiamo voluto proporre ai nostri ascoltatori questo collage di pezzi, titoli appunto dei telegiornali e dei giornali radio per così risintetizzare un po' quello che è il tema dominante in questi giorni e che catalizza gran parte dell'attenzione degli operatori finanziari che cercano di quantificare quello che sarà l'impatto economico di questa epidemia. Mauro. Sì, perché infatti naturalmente, a parte tutte le considerazioni di ordine sanitario, ma sulle quali rimandiamo come sempre a Obiettivo Salute, che va in proprio dopo Due di Denari, tra pochissimo, invece le considerazioni economiche hanno cominciato a farsi strada,